loro ti dicono che stai sbagliando tutto, non crederci, non crederci. Non si ricordano quanto hanno già sbagliato da giovani, da giovani. E tu prenderai la strada della vita, e tu prenderai la strada dell'amore, e non ascolterai vuote parole. Loro ti dicono che non conta la tua voce, non crederci, non crederci. Forse non hanno più la forza di gridare, rinunciano, rinunciano. Ma tu che lo puoi, non fermarti mai, ma tu che lo puoi, prosegui il tuo cammino finché non troverai un mondo migliore. Loro ti dicono che c'è una strada sola, non crederci, non crederci. Forse lo dicono perché hanno già scordato le lacrime, le lacrime. E tu chiederai perché devi sparare, e tu chiederai perché devi colpire, e loro non sapranno cosa dire. E loro non sapranno, e loro non sapranno, e loro non sapranno, e loro non sapranno cosa dire.